Polveri. Radio Bomba. Boom! Benvenuti alla terza puntata fantastica di Fuoco alle Polveri. Ci ha appena scritto un nostro ascoltatore dicendoci: ma non doveva cominciare 20 minuti fa? Ebbene sì, doveva iniziare proprio 20 minuti fa, ma noi iniziamo adesso. Ciao a tutti. Ciao a tutti. C'erano alcuni problemi un po' tecnici, ma succedono di queste cose, ascoltatori lamentosi. Ascoltate altro piuttosto. È sempre bello smanettare. Non abbiamo bisogno di voi. No, via. Ma c'è il poliziotto cattivo. Iniziamo subito a scacciare tutti almeno. Oh, quindi, eccoci qua, benvenuti alla appunto terza puntata, terzo lunedì. E oggi cosa facciamo oggi? Oggi chiacchieriamo sempre di un sacco di cose, diverse rubriche, gli ospiti ce li abbiamo registrati, ma ce li abbiamo. E iniziamo a dare contatti, io l'ho dati sempre io, che basta direi. Guido, ci dici un po' di contatti. Li do io, non c'è problema. Allora, i nostri contatti sono il sito wombat.noblogs con la sfinale.org, dove potete sentire la diretta della radio e dovete potete trovare i podcast, tutte le informazioni per ogni trasmissione. Su Twitter abbiamo Radio Wombat Fi, Facebook anche Radio Wombat Firenze, trovate facilmente, dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti e anche sta per iniziare questo programma, collegatevi. Ed infine, per qualsiasi cosa, posta wombat@insiberia.net. Stiamo ancora aspettando ricette per la rubrica della Kate. Sì, per le risposte alla Kate, alle sue ricette fantastiche. Ma poi mi viene in mente, ma Twitter lo usa qualcuno? Sì, io no. Sì, vero. No. Mi sa di... Io non so come funziona. Ma è scaricato, semplicemente non so. Vabbè. Non so veramente come funzioni. Ciao Twitter. So che ci sono uccelli di mezzo e mi tengo lontano. Lo dici per parole chiave, poi puoi seguire. Vabbè, comunque, io inizierei col fatto che ieri qui c'è stata una serata alla fine, pazzesca. Eccezionale, veramente eccezionale. Ballata all'inizio e alla fine. Che c'era? C'erano i mitici, stramitici, Quarto Potere. Esatto, e più il suo il nuovo membro del Quarto Potere. Lapo Potere. Che ha duettato. Ho duettato, buonasera. E... Ciao Grippo. Buonasera Grippo. Ciao, è stato un piacere per me duettare con i Quarto Potere, con Vinicio. È un sogno che si è... realizzato da almeno 10 anni. Coltivavo il sogno di suonare insieme ai Quarto Potere, cioè, perché prima di Quarto Potere era già successo. Sì, c'era anch'io. Sì, infatti, qua, 2008, tipo, una cosa del genere. Insieme a Quarto Potere non era mai successo. È successo, vabbè, a questo punto può succedere. Cioè, posso anche Nirvana, il Nirvana. Dopo di questo il Nirvana. Sì. Perché tu hai aperto il concerto. Ho aperto tra il concerto ai Quarto Potere. Un giorno ci farai sentire, perché hai fatto un sacco di pezzi tuoi. Sì, li rifarò, tranquilli. Sì, cioè, anche qui in radio magari. Magari li rifò meglio, anche, può darsi. Vabbè, è andato bene, però ieri eri parecchio stanco, mi sa. Sì, stanchino, buono, me lo alzavo presto, insomma, Ma senti, ma ce lo sentiamo subito un pezzo di Quarto Potere? Sentiamo subito un pezzo di Quarto Potere. Per entrare nello spirito di ieri sera. Per entrare, sì, vogliamo tornare a quelle danze popolari di nostalgici. Ieri sera. Sì, esatto, a quei momenti. E quindi il titolo e è. E quindi se ne va con Gna più Garbunciuco a bere a boccia. Che è, insomma, vabbè. Si commenta da sé, cioè mandiamolo per favore, perché veramente non si resiste più. Espressione bresciana. La più bella sinel che bea butte anche che noter a baioccare il minuet. Espressione marchigiana. Sta più aggraziato un sumaro che beva il gollo de bottia che non altro a suonare il minuetto. Peace. ma mai avrei pensato che mi andasse tutto male. Dai tempi della scuola avevo quel sentore, io sono nato grezzo, non sarò mai un signore. Questa voce grossa, i modi troppo goffi, le unghie maciucchiate, i tuoi capelli un po' mossi. Se mi tratti bene, io poi ti rido in faccia. Chi ha più carbunciuco a bere a bocce, chi ha più carbunfacco a fare un ricamo, chi ha più carbunboia a farti manicure, chi ha più carbuncignare a rigovernare, se ha più carbonoi a suonare. Un giorno di vacanza sentì una melodia che usciva da una stanza, entrando poi gridai evviva, ma che bello, anch'io ho trovato della gente al mio livello. Con quelle facce sono compagni ideali, anche se non saranno mai decenni musicali. E in tutti i locali noi perdiamo la faccia, chi ha più carbunciuco a bere a bocce, chi ha più carbunfabbro a fare un ricamo, chi ha più carbunboia a farti manicure, chi ha più carbuncignale a rigovernare, chi ha più carbonoi a suonare il minuetto. A bere a bocce, gli ha più carbunfabbro a fare un ricamo, gli ha più carbunboia a farti manicure, gli ha più carbuncignale a rigovernare, sa più carbonoi a suonare il minuetto, gli ha più carbundiavolo a dire la messa, gli ha più carbunpicciazzone in casa signoria, gli ha più carbunpolitico a essere onesto, sa più carbonoi a suonare il minuetto. Breath breathing. We are talking about breath breathing. Si può. Andiamo a parlare di quarto potere. I quarto potere nascono nel lontano 1984 sui banchi di scuola dell'istituto alberghiero Saffi con Gastone, Vinicio e Guido. Ecco, una notizia che posso dire dopo ieri sera è che Gastone, Vinicio e Guido, da quanto mi hanno detto, hanno la facoltà di battezzare e chiunque vada a suonare con loro per una serata. Quindi è ufficiale. C'è stato un momento ieri di battesimo proprio in cui sono stato battezzato Lapo Podere. Quindi d'ora in poi Lapino. Non so se mi pentirò di Lapino. Anche Lapo ci sarà tra i miei nomi. Non so se mi pentirò di questa domanda, ma battezzare nel nome di quale dio? Ah boh, che ne so, qualche dio dei campi, okay, suppongo, okay. Comunque. Dio del trattore. Sì, sì, sì. Ci sono canzoni d'amore per la pala, ci sono tutte, mi ricordo Mensa di LF, ci sono varie canzoni di spessore culturale proprio. Si sente io credevo fossero mugellani, invece no. Mi hanno detto sono tutti giragira di San Frediano. Però dice, cioè, lo zoccolo duro ovviamente dei supporters dei quarto potere risiede in campagna, suppongo. Comunque mugellano lo si può essere di adozione oltre che di nato. Giustamente, certo, anche perché io sono rifredino e mi considero mugellano anch'io, almeno per un buon 50%. E mi hanno detto un'informazione molto ghiotta, che quest'altro anno, quindi nel 2017, sì, saremo al 25esimo. Vabbè. Lo sentiamo, lo sappiamo sì, subito. Sì, sì, passiamo sì, un attimo al gioco a dire sotto. Falciare, falciare. Grandine. Grandine. Bestemmia. Magici, bellissimi. Aspetta, ora era buono. Siete diventati dei veri contadini, dei veri campioni di gioca a poder. Poder. Ebbene, geniale, stavi dicendo. E quindi nulla, festeggeranno a bestia, e mi hanno detto che faranno un sacco di concerti, anche con invitati, anche mi hanno detto, ora non lo so bene, comunque sicuramente vi aggiornerò, cioè cercate, perché hanno anche un sito fatto bene, quartopodere.com, pensate, quartopodere, con tutti gli MP3 scaricabili, grandissimi. Mamma mia. No, grandissimi, ma da un sacco, cioè sono, boh, non lo so, sarà 7-8 anni minimo, non lo so, da quando Spaventapasseri è geniale. Sì, ce ne sono varie geniali. Rastrello anche, non mi dispiace. No, veramente incredibile. E niente, insomma, seguiteli quest'anno perché secondo me raccontano cose buone. Perché cosa festeggiano? Festeggiano i 25 anni insieme, quarto potere, 25 anni del potere, da quanto mi dico. Quindi nulla, cioè, è un momento cioè, ancora più buono, cioè, ancora meglio di tempo fa per ascoltare Quarto Potere, cioè, è sempre stato il momento di Quarto Potere, ma adesso ha maggior ragione. Anche perché ci sarà l'Apo probabilmente. No, boh, non lo so, ah, sì, magari andare, se cioè passo di Rizio veramente, cioè, ti fermi. Sì, sì, sì, sì, se mi raccattano due pezzi li fo di nuovo, volentierissimo. Bene. Viva il Quarto Potere, viva. Facciamo il rock agricolo. Viva sempre il rock. Comunque agricolo. Quel giorno non c'è stato soltanto il mega concerto la sera, però è stata tutta una giornata in quel di Polveriera. Sì, una grande giornata come sempre di mercato. Per, che già avevamo lanciato nella puntata del lunedì scorso, anzi la Kate ci aveva parlato di venire a prendere roba genuina. C'è stato il mercato, non solo, c'era anche l'usato, la musica a un certo punto messa tutto il pomeriggio, una situazione eccezionale. Poi che sole c'era ieri, che sole, viva. E, sì. E poi dopo nulla, il solito mangiare e poi festa. Una giornata festa. Alla fine, guarda, si è sgranato. Sono le domeniche di mercato, sempre belle in Polveriera. Belle situazioni in Polveriera. Sì, infatti cogliamo l'occasione per ricordare l'appuntamento, che comunque per ora è un appuntamento abbastanza costante, lo è stato finora, che è quello del mercato contadino e artigiano. Esatto. In Polveriera, in quel di Polveriera. Ogni secondo giovedì del mese. Domenica del mese, seconda domenica del mese. Secondo me, il secondo giovedì del mese c'è il lavaggio sotto casa mia, per quello che ce l'ho stampato. Ce lo ricordiamo parecchio bene per le multe. Lavaggio personale o dell'auto? Personale. Ah, personale. Assolutamente personale. Settimanale. Bene, allora io introdurrei il prossimo pezzo che mandiamo, che è uno di quei bellissimi pezzi che ci ha... Per chi è stato il primo dicembre a sentire, l'abbiamo detto già alla puntata precedente, il concerto di Giaccone, di Stefano Giaccone dei Franti, insieme a Luca Bonaguidi, hanno presentato il loro libro Franti MM perché era lì, uno spettacolo, anzi, che Franti MM che riportava appunto e presentava il libro Perché era lì dei Franti. Mandiamo adesso un pezzo e poi magari vi raccontiamo e vi facciamo anche sentire l'intervista che abbiamo fatto a Stefano Giaccone il primo dicembre. Mandiamo il primo pezzo. Dai regia, dai! Sono stato troppo aggressivo forse. Mi sono spaurito. Cioè, stato troppo aggressivo. Ha intimorito il computer. Mamma mia, è stata proprio una cosa. Manda l'altro. A volte succede così, gli oggetti rispondono in maniera strana alle provocazioni, vero? Sì, alle provocazioni. Prova più dolcemente. Sai quando dici, ho creato un mostro, creato un mostro. Con tutto, con i tavoli, le sedie. Ciao. Buonasera. Prova più dolcemente. Prova più dolcemente. Se no, poi spengi e accendi. La tecnica botta. Suprema. Ah, no, prima botta e poi spengi. Prima la botta. Spengi e accendi poi... la tecnica suprema. È vero. Ci riproviamo più dolcemente. Potremmo mandare un pezzo dei Franti, regia. Per grazie. Favore. Per favore. E su. Grazie. Un film che è uscito un po' di anni fa che si chiamava Preferisco il rumore del mare, di un regista torinese una famiglia di immigrati calabresi venuti a Torino a lavorare alla Fiat. Mimmo Calopresti. Il film si chiama Preferisco il rumore del mare, ed è la storia di un ragazzo che viene a Torino perché finisce nei guai giù in Calabria e diventa amico di un ragazzino della collina, che a Torino vuol dire le famiglie bene. E c'è una scena nel film dove, per noia, per gioco, che si sono rotti i coglioni, questi due ragazzi sfasciano la cameretta tutta tenuta per bene, piena di libri, e Mimmo ha voluto mettere questa canzone qui come colonna sonora. Questa è l'ora che odio il mio giorno, questa è l'ora. Questa è l'ora che odio il mio giorno, questa è l'ora. Questa è l'ora del buio sui volti, questa è l'ora. Questa è l'ora del buio sui volti, questa è l'ora. Questa è l'ora di notte riposo, questa è l'ora che stanca di tutto. Questa è l'ora che non voglio più niente, ma sacro lavoro, soldi sconfitta. Questa è l'ora di accendere un fuoco che bruci ogni confine, un fuoco che bruci ogni attesa, un fuoco che bruci ogni ora negata. Adesso è l'ora, adesso è l'ora, adesso è l'ora. Che bruci ogni attesa, un fuoco che bruci ogni ora negata. Adesso è l'ora, adesso è l'ora, adesso è l'ora. Bene, questo erano appunto i Franti e quello che è stato Stefano Giaccone in Polveriera, il primo... Questo pezzo si chiamava Questa è l'ora, dei Franti. Molto bello per chi ci ha anche ascoltato. Magari io stavo pregando prima di rimandare... Comunque il Pizzo fa un casino con questo microfono, guarda, senti che Sì, è colpa mia. Buono. Ora... Avevo chiesto di rimandare un pezzo, però non mi vogliono ascoltare. Gli ha più carbonciù, gli ha più carboncinghiale a Rigovernale. Cignale, scusate la pronuncia. Invece, ritornando sui Franti, io volevo un po' raccontare che cosa erano e cosa sono i Franti, e però l'abbiamo chiesto direttamente a uno dei membri di questa storica band torinese e gli abbiamo fatto un'intervista e l'abbiamo registrata e adesso ve la mandiamo. A Giaccone per strada, quindi è un'intervista street. È molto divertente, anche con momenti... Oh, ciao, stiamo registrando. Grande. Esatto. Buon ascolto. Intanto sotto questo bellissimo pezzo, per un attimo di fade out e si va all'intervista. Magari una domanda abbastanza banale, introduttiva. Chi o cosa sono ed erano e saranno i Franti? Franti, Torino 77, in pieno, cioè, quindi compagni che venivano da quell'esperienza, e che all'inizio degli anni Ottanta, in un paese sconvolto dalla repressione, dalla lotta armata, e si ritrovano sostanzialmente con l'idea di voler vivere assieme e si ritrovano collegati anche con un movimento di punk che sta sorgendo in quel momento. E questo è quello che siamo stati per un breve periodo, perché in realtà poi nell'87 ci siamo fermati, quindi 5 anni, e poi abbiamo continuato a suonare in maniera diversa, con nomi diversi, alcuni di noi insieme, alcuni di noi per conto proprio, e adesso questa è una storia dopo tanti anni, stiamo parlando di 30 anni, è una storia diversa, il gruppo si chiama Franti MM, che è un po' il logo della metropolitana Milano, ma in realtà, sì, tanto non è un segreto, vuol dire Franti mi manchi, ed è una storia molto diversa. Io vivo all'estero, per cui è un gruppo modulare, ci sono 6 o 7 persone coinvolte, ci sono le canzoni dei Franti, ma ci sono anche altre cose nuove. In parte è una cosa che è nata per l'uscita di questo libro, fatto da questo blog Cani Bastardi, che è la base qua in Toscana, che è uscito un anno fa, e quindi sull'onda un po' di quello, quindi anche con Luca Bonaguidi c'è lui, c'è una cantante, il contrabbassista Gianluca Della Torca, è un po' di, c'è un gruppo anche che si chiamano Airport Man, che sono di Cuneo, con il quale io ho collaborato per molti anni, e ecco, il futuro però poi è da scrivere, come diceva Joe Strummer. A proposito del fatto che ci hai detto che vivi appunto in Inghilterra, tante volte magari si capisce meglio un posto vedendolo da una certa distanza. Tu che hai vissuto intensamente in Italia in un certo periodo, che cosa ci puoi dire, insomma, secondo te, fra similitudini e diversità, fra quello che ti può apparire essere oggi la temperie e quella che hai vissuto tu negli anni in cui Franti suonavano a Torino? Io non riesco molto a differenziare la musica da quello che oggi si chiama la politica. Vengo da una generazione nella quale faceva parte di anche le relazioni personali, l'idea che avevi del lavoro, del tempo, della casa, e anche la politica non c'era, la politica era la nostra vita. Ciao Marco, scusate, bellissimo. Aggiorniamo, grandi produzioni. Presto. Così taglia. Ciao Lorone. La teniamo, ci piace. Mi piace. Stiamo registrando fuori dal concerto di Stefano. Esatto. Molto street. Non lo so, è difficile magari dire in 4 parole certo. Quello che... Poi quando vengo in situazioni come questa, allora tutto torna, no? Come una marea molto, molto bella, anche molto... molto tenera, molto dolce, cioè mi viene, ed è, in realtà guardando dall'Inghilterra, vivendo all'estero, ho paura, credo che siano anni molto molto peggiori dei nostri, in un certo senso le cose allora erano molto più bianche o nere, e quindi prendevi una posizione, c'era una sorta di guerra civile in Italia allora, c'era lo scontro di classe in fabbrica, le scuole, oggi forse dovremmo avere, non so, forse più coraggio e di guardare a modi nuovi anche, spesso ho l'impressione, ma questo vale anche per la musica, no? Che la musica, il modo di fruire della musica è cambiato radicalmente, e questa è una cosa che bisogna accettare, e bisogna anche in questo nuovo modo ci sono dei modi di indipendenza, di libertà e di alternativa, perché poi finiranno per venderci anche questo, come ci vendono Facebook, ci vendono tutte le cose, iniziano nel nostro campo e poi vengono trasformate delle merci che poi noi ci ricompriamo. La cosa di cui ho paura è che per 20 anni ci hanno fatto inseguire Berlusconi, mentre ci hanno riportato indietro di 50 anni, mentre hanno fatto il cazzo che volevano, tutti d'accordo. E in realtà ci hanno presentato questo personaggio come se fosse la cosa da rimuovere, no? E adesso mi sembra che sia di nuovo la stessa cosa, poi cambiano i personaggi, eccetera, eccetera. E quella che una volta si chiamava l'autonomia, cioè l'autonomia di un punto di vista della tua vita, no? Proprio di un modo diverso di vivere. Che non è morto, che è ancora lì, e che io lo vedo, lo sento, purtroppo non lo posso più praticare perché non ho più l'età, perché poi stupidamente, poi magari, no, io non tanto forse, però la mia generazione poi arrivati ai 40 anni dice devo correre ai ripari, allora torno nei ranghi, ed è un inferno perché non sei più capace, perché hai perso il tempo giusto, no? Dovevi farlo se volevi fare l'impiegato il bancario, dovevi farlo a 20 anni, a 40 poi sono cazzi. E lo spazio oggi mi sembra è uno spazio della mente, anche più che uno spazio politico immediato, uno spazio di immaginare. Secondo me bisogna fare proprio un passo indietro, cioè lasciare che non è lo scontro vero, non è lì, non è lo scontro vero. La TAV è geograficamente rappresenta anche un po' questo. Non voglio dire che la storia della TAV sia poco importante, eccetera, però poi alla fine poi migliaia di compagni, quei pochi che ancora ci sono. Cioè io guardo le news su dall'Inghilterra e vedo ogni posto dove va Renzi, dove va Salvini, ci sono 50 compagni che si fanno massacrare, e mi chiedo, ma perché? Cioè non lo so, va bene, no? Cioè andare in piazza e far casino va sempre bene, io sono sempre dalla parte di però secondo me dovremmo fare un passo indietro e ricominciare da lasciare che il teatrino della politica, questo film, se lo facciano fra di loro. Dobbiamo ricreare un'idea di socialità, di comunismo, scusate, che sia nuovo, che sia di adesso, che sia anche sperimentale. Non... E se questa è la situazione, forse allora la musica e l'arte in generale tornano ad avere un ruolo centrale, diverso, ma ancora assolutamente fondamentale nel divenire. Sono assolutamente d'accordo. La musica per decenni è di nuovo, dopo l'autogestione, il punk, è tornata a essere di nuovo un modo per fare dei soldi, perché poi alla fin fine sono quattro gatti quelli che fanno i soldi veri, perché tanto i soldi in Italia non ce n'è per questa roba qua, non c'è una scena, non c'è niente di questa roba qua. Stiamo parlando di quei quattro che vanno in televisione. Cioè se vai in televisione, allora per 30 anni poi vai in giro a suonare, poi magari vai a suonare la Feiera del Peperone, però sei stato in televisione, quindi prendi i soldi e fai i soldi veri. Se no non c'è niente. Quindi, però ci hanno, come si chiama, i talent show, eccetera, eccetera. Ci hanno convinto che la musica è quella roba lì, ma anche i libri, anche la letteratura, no? I premi, le feste, le fiere, le scuole, ce n'è una a Torino, ahimè, no? Le scuole dove si insegna a scrivere il capolavoro letterario giovanile, eccetera, eccetera, vaffanculo. Quindi cioè, si leva là. Esatto, cioè, ecco, riportare di nuovo il fare artistico, il fare culturale in mezzo alla strada, in mezzo alla vita vera, anche di quel pochissimo che c'è, perché è poco quello che c'è, perché la frana è stata grossa, non è una cosa di cui possiamo dire ah vabbè, ok, ricominciamo da un'altra parte. Un'ultima domanda: il libro di cui ci parlavi prima, Franti, antistorie da una band non classificata, tra l'altro già che ci sono Nautilus Edizioni, uscito un anno fa a Firenze, sì. Lo si può trovare alla libreria dell'Emerson in Polveriera, alla libreria Black Spring in Piazza Tasso. E abbiamo letto e abbiamo anche sentito nella serata alcuni stralci. È un libro alla Franti, e infatti non parla strettamente dei Franti, anzi ne parla marginalmente. Non sono i Franti, o meglio, non sono solo i Franti gli autori. È un libro strano, ma perché comunque anche i Franti era un po' un progetto strano. Sì. Se strano, insomma. Fra di noi abbiamo detto che era un libro frantiano, nel senso fatto alla Franti, che è anche confusionario, anche caotico, e anche noi non abbiamo mai nascosto che abbiamo preso dal mondo che ci circondava, non abbiamo mai nascosto le nostre fonti, non ho mai creduto, cioè, certo, poi ogni tanto viene Mozart o John Lennon o Frank Zappa o Coltrane, però voglio dire, la nostra idea era un'idea di creare dei cortocircuiti artistici e poetici, e quindi il libro è fatto in quella maniera lì, è una serie di cortocircuiti, di incroci, dove veramente ti puoi anche perdere, perché a un certo punto un po' di gente che l'ha letto ha detto, cioè, prima di pagina 50 non si parla del gruppo. Ho detto, beh, no, non lo so se pagina 50 o pagina 60, però non è un libro sui Franti, quello è, anche perché in fin dei conti è musica, cioè musica l'ascolti e sono i riferimenti, magari cortocircuiti, dei percorsi, come anche Pasolini diceva questo, no? Cioè, dei percorsi poco battuti in mezzo al bosco dove lui sperava che qualcuno si sarebbe inoltrato. Ecco, forse Franti ha acceso qualche luce, insomma, su quel percorso lì, poi ognuno si fa il suo, insomma, questo. Beh, noi ringraziamo tantissimo Stefano Ciacconi. Contiamo che se ricapiti in Toscana ci passi a ritrovare. Molto molto volentieri, però se non ripassi, di nuovo darvi fastidio. Ti invitiamo noi. Okay. Grazie di nuovo. Buonanotte, ciao. Magari una domanda abbastanza banale, introduttiva. Breathing. D'accordo, ci proverò. No! Provare no. Fare. O non fare. Non c'è provare. Quel pavè, ho preso un'imbarcata che peggio non ce n'è, la bimba mozzafiato a piedi m'ha lasciato e le auto poliziotte non m'hanno più mollato. Maledetta, maledetta Thunderbird, maledetta, maledetta pioggia, maledetta, maledetta Thunderbird, maledetta, maledetta pioggia. La donna così sera, finiti gli I love you. Il dritto è capottato, non si rialza più. Su piccola non piangere, c'è Billy Car che aspetta. Non resta neanche tempo per una sigaretta. Che curve quella bambola, che notte quella notte, criminalmente bella, gli abbiamo presente. Da un quintale non mi serve neanche più. Teresa poi sparato e mi ha buttato giù. Maledetta, maledetta Thunderbird, maledetta, maledetta pioggia, maledetta, maledetta Thunderbird. Maledetta Thunderbird degli Arpione, una richiesta fattaci da un nostro amico direttamente da Berlino. Chi è, Guido? È Samu. Ciao Samu. Ciao, bella Samu. Samu. Ciao, bella Samu. Ciao Samu. Affezionato ascoltatore di esatto, Fuga alle Polveri di Radio Bomba. Ufficialmente la prima richiesta dai nostri ascoltatori. Esatto. Ma tra l'altro, ragazzi, una richiesta che cade a fagiolo, a perché fagiolo, di una bellezza. Questo pezzo è veramente veramente simpatico. Tu che le sai tutte, secondo me. Io che le so tutte. No, bello perché, cioè, tutte le fini possibili di Buscaglione, Teresa che spara, se l'avete ascoltato è proprio divertente, il sinistro dal da un quintale non è bastato. Ma vabbè, mi lascio introdurre, perché allora, sono una sì, star. Esatto, solo le star si fanno introdurre, giustamente non si introducono, sarebbe imbarazzante. Già. E quindi adesso noi partiamo con la nostra raffica di rubriche meravigliose. E la prima è Due pezzi di cuore di Nico. Yeah. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Due pezzi di cuore. The Platters. Only you. E buonasera. Allora, cominciamo du piezze core, qualunque sia il dialetto in cui ho pensato questo titolo. Parlando oggi dei Platters, che è il gruppo che sta cantando sotto di noi, proprio sotto i nostri piedi. E ne abbiamo parlato la scorsa puntata, perché mi sono impappinato e ho detto Platters invece di chissà che chissà dei Primitives, invece dei Primitives, sì. Ho detto Platters, però era una cosa che volevo già fare. Allora, parliamo dei Platters. I Platters sono stati un fenomeno incredibile. Infatti colgo la sponda che ci ha dato Samu per parlare del fenomeno di Buscaglione. Una fama incredibile in Italia, durata un decennio, e morta e finita in tragedia totale, come era solito per i gruppi di quegli anni. I Platters sono proprio l'emblema, però sono anche l'emblema di una fama e di una, cioè, di una vita oltre la morte. Andiamo ad approfondire. Allora, insomma, i Platters nascono nel 53 e sono un super fenomeno. In tutta la loro carriera fanno tipo 89 milioni di dischi venduti nel mondo, 27 apparizioni su film, sono importantissimi. Vengono lanciati dalla Mercury Records, dal produttore Buck Ram, che praticamente gli fa rincidere questo pezzo che stiamo ascoltando qui sotto, che è Only You, che loro già avevano lanciato 2 anni prima, ma nessuno se li era cacati. Nel 55 Buck Ram gli fa riarrangiare questo pezzo da Ernie Freeman, che è stato un arrangiatore anche di Polanca, di Frank Sinatra. Viene lanciato all'inizio il pezzo sul circuito nero, perché loro sono 4 ragazzi e una ragazza e sono tutti negri. E praticamente mi sono un attimo emozionato per, ho detto negri alla radio. Sei, volevi autocensurarti. Evviva. No, una parola come un'altra. Come Froci. come froci. Però si è detto, ne abbiamo parlato nella ne prima abbiamo puntata. Parlato nella prima puntata. Ascoltatevi il podcast. Insomma, viene mandato sul circuito nero, cioè piace moltissimo. A un certo punto, per maneggi strani della discografia americana, viene data al DJ Alan Freed di Cleveland, che la lancia e diventa un pezzo che esplode all'istante, perché loro lanciano proprio un modo di fare, che questo cantato sincopato. Poi sono il primo gruppo nero ad avere un arrangiamento di archi sotto le loro voci, fanno tutte queste cose a cappella in cui le voci sono più da arrangiamento strumentale che vera e propria canzone, e poi fanno questa cosa del singhiozzo e fa ah ah oh, capito? E va di super, cioè piace tantissimo. In Italia arriva tipo un anno dopo, chiaramente un anno e mezzo dopo che esce in America, nel 57 arriva Only You ed è un super boom. Ma soprattutto perché lancia questa moda fantastica musicale del terzinato, che è questa cosa qui. Alziamo. E i nostri genitori ballavano panza a panza mentre sentivano queste cose qui. Pube a pube. Sì, è pube a pube. Diventa una cosa romantica, super romantica. Diventa l'emblema delle feste di quegli anni, proprio degli anni 50. Plesso solare a plesso solare. Anni 50, anni 60, dura tantissimo. Proprio, cioè, vorresti toccare il culo a qualcuno mentre ascolti questo? Sì, pezzo. Sì. Insomma, c'è il tasso qua dietro. Se magari anche no, la prossima. Stiamo parlando di anti oscene in luogo pubblico. Addirittura. Ebbene, mandiamo adesso un pezzo che esce proprio nell'anno stesso in cui arriva Only You in Italia, che è proprio il 57, ed è un pezzo dei super, dei Quartetto Cetra, che condividono una cosa simpatica con i Platters, cioè hanno anche loro, partono, sono un gruppo di... No, in realtà sono stati... Poi ne raccontiamo. Qui singhiozzano molto. Questo pezzo si chiama Un disco dei Platters. C'è anche scritto un libro Guccini, mi pare, che si chiama così. Non so. Un disco dei Platters. Un disco dei Platters, dei Quartetto Cetra, del 57. Lo lanciamo, poi se ne chiacchiera, dai. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, voglio riascoltare soltanto Only You. Sembra tornar l'estate, le miss con i blue jeans fasciate, i flirt, il rock and roll col one, two, three, sempre a ballar così l'estate morì. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, non mi disturbate se ascolto Only You. Penso a chi baciavo, a chi tutto il mio amor donavo, a chi triste partì di questo mi desta solo nel disco di Only You, un disco e nulla più. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, Voglio riascoltare soltanto Only You. Sembra tornare l'estate, le miss con i blue jeans fasciate, i flair, il rock and roll, col Juan con Jimmy e Fritti sembra ballar così l'estate morì. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters. Shh, non mi disturbate se ascolto Only You. Ripenso a chi baciavo, a chi tutto il mio amore donavo, a chi triste partì di questo. Mi resta solo il disco di Only You. Un disco è nulla. Alors avrai un énorme Schwanzstück. You'll never know. You'll never, never know I care. Ebbene, abbiamo sentito questo primo pezzo. Bellissimo. In effetti singhiozzevole. Sì, abbastanza singhiozzevole. Ma è stato proprio un mi ha riempito di allegria, cioè. Una cosa bellissima che ho scoperto. Tony Dallara è stato uno. Aveva fatto un gruppo insieme a Battisti, tra l'altro. Si chiamavano I Campioni. A Milano avevano fatto questo gruppo. Per chi conosce gli inizi di Battisti conosce I Campioni. E Tony Dallara, cioè la mania dei Platters è stata veramente una febbre in Italia, una cosa che è durata tantissimo, è stata veramente una febbre. Se uno ascolta come prima di Tony Dallara, come fa? Come prima, più di prima, tamerò. Sente come prima, più di prima. Ma davvero, fa proprio così. Comunque. Allora, si parlava del quartetto Cetra, un simpatico paragone tra il quartetto Cetra e i Platters. Il quartetto Cetra è stato uno dei gruppi più longevi in assoluto nella storia dei cantanti, appunto, della musica italiana. Sono durati 41 anni, questi sono nati nel 40 e si sono sciolti nella metà degli anni 80. Sono stati un faro nella televisione, nella radio, nella musica italiana. Assolutamente. Tanto su... ma sì, perché poi ho sentito un programma alla radio, per l'appunto, parlava del quartetto Cetra e hanno affogato un sacco. Ma loro fortissimi, facevano queste cose dei non so se si possono chiamare musicarelli tanto quanto i video della biblioteca di Studio 1 rappresentavano grandi drammi o grandi romanzi con le musiche dei tempi, col testo riscritto in funzione dell'Odissea o di quello che sia. Chiave anche un po' comica. Anche un po' comica e molto fighi, cioè con super balletti, grandi, cioè grandi produzioni Rai degli anni 50. Grande varietà. Grande varietà. Insomma, invece i Platters no. Invece i Platters dopo 4-5 anni si sciolgono e finiscono nelle maniere più tragiche. Nel 59 vengono beccati in un albergo di Cincinnati, tutti e cinque, di Cincinnati. Vengono bloccati in un albergo di Cincinnati, tutti e cinque, con droga e troie. Oh, sì. Com'è Elkan? Uguale. E vengono, insomma, li accusano di sfruttamento della prostituzione, di droga e maiale, uso di stupefacenti, di droga e maiale. Li accusano di bamba e mignotte. Dopo questo, nel 60, Tony Williams, che è proprio quello che fa Only You, la voce, diciamo, più importante, quello più carismatico, decide di mettersi in proprio, di lasciare i Platters, e comunque il suo nuovo gruppo lo chiama lo stesso i Platters. Allora tutti gli altri, per ripicca, dicono ah, è così, e tutti quanti fanno un loro piccolo gruppo che si chiama i Platters. Ad oggi esistono una cosa tipo un centinaio, ho visto una serie di articoli che parlano di un centinaio, proprio per sapere se sono cifre fittizie, però un centinaio di gruppi che vivono, che si chiamano The Original Platters e vanno in giro come revival e dicono che c'è stato qualcuno. La storia più interessante che ho letto su questa cosa è che Andy Moss, un tipo di 77 anni che è morto tipo 4-5 anni fa, è morto in Cile, si è fatto ricoverare in ospedale e per farsi ammettere, insomma, in ospedale. Che cosa state guardando? Sto vedendo una cosa bruttissima al computer. No, stiamo preparando l'intervento di dopo. Per farsi ammettere. Sono per... le mignotte, mi sa. Le mignotte sul computer. Cioè, per farsi ispirato. Ammettere in ospedale, disse che aveva suonato nei Platters. Ed è vero, lui ha suonato nei Platters per una cosa tipo 5 anni, ma molto dopo che si erano già sciolti. È stata proprio così. Tanti altri, comunque. Cioè, no, non ho capito bene. Che praticamente questo Andy Moss non è stato dei primi 5, però il gruppo è... Ma perché l'ha detto in ospedale? Per farsi ammettere in questo ospedale cileno. Non per so le condizioni sanitarie. Io ero dei Platters, avere... lo sai. Hai suonato nei Platters, allora... allora ti operiamo, allora ti facciamo morire nel nostro ospedale. Ma poi è nata tipo una dinastia dei Platters. Ce ne sono, c'erano ancora tantissimi. Ed è una cosa diversa. Ma la cosa più bella è che la maggior parte di quelli che davvero facevano parte dei Platters all'inizio sono tutti finiti in storie bruttissime. Un'altra storia molto simpatica è Taylor Zola, che era l'unica donna del gruppo, che nel 68 è finita sui giornali per questa cosa di cronaca, perché si contese con altre due donne l'eredità di Frankie Lymon, che era uno di questi amati dai teenager, una... non so come si dice, una star per i teenager, che è morto a 25 anni, e tre donne dicevano di essere sue vedove e volevano la sua eredità. Una di queste era la femmina dei Platters. Comunque, no, a parte queste storie macabre, adesso mandiamo questo pezzo, che appunto è di Buscaglione, per cogliere la palla di Samu. Non nel senso vero e proprio, nel senso metaforico, ecco. Grazie per aver precisato. Ecco, perché magari qualcuno all'ascolto. Si chiama appunto Si sono rotti i Platters. Ed è stato scritto proprio nel 59, quando i Platters si sono rotti, perché noi cogliamo sempre la palla al balzo, sempre in senso metaforico come italiani. Avanti. Ehi, boy! Sì, signor? Portami Platters! Subito, signor! Maledizione! Si sono rotti i Platters! Ed ora che si fa? La vita senza Platters! Che mai diventerà? Stato quel disgraziato, ma guarda un po' che guaio ha combinato. Pur l'amore mio m'ha detto addio, se n'è fuggita lontano e mai più tornerà. Si sono rotti i Platters, oh che fatalità, ma chi m'ha rotto i Platters me la pagherà, sì, sì, a chi m'ha rotto i Platters, la pagherà. Fuggita lontano mai più tornerà. Si sono rotti i Platters, oh che fatalità, ma chi mi ha rotto i platters, baby, la pagherà. Ma chi mi ha rotto i platters, baby, la pagherà. The Platters. E insomma, chi è che aveva rotto i Platters? Qualcuno l'ha capita? È una domanda importante, è difficile per noi. Ce lo puoi dire te? Dicelo, dicelo. No, no, è che si voleva... È bella questa cosa perché il pezzo che ci ha fatto sentire... No, non voglio essere ripetitivo, però il pezzo che abbiamo sentito... Perché era veramente una coincidenza molto simpatica. Perché parlava tanto della fine strana che ha fatto Buscaglione. I Platters hanno fatto una fine altrettanto strana e Buscaglione ne ironizzava, capito? Che prima di... Prima di e poi pure lui, cazzo, maledetta Thunderbird, eh? E noi li abbiamo sentiti in questa sequenza così improvvisata. Ebbene, ha regalato contenuto alla sua rubrica. Mamma mia, quanta poesia, quanta poesia. Bene, è importante il contributo degli ascoltatori. È vero, è vero. Contribuite, dateci dei soldi. No. Ciao, no. Se volete. Il mio IBAN è I000. Allora no, scherzo. Alla prossima, speriamo vi sia piaciuta questa rubrica e ci risentiamo con due pezzi dei Corazon. La prossima settimana, lunedì, su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri, sigla! Eccoci, grande Nicco. Grazie Nicco, grazie. Stra interessante. E allora noi dobbiamo rispondere a un'accusa, Lore. Noi dobbiamo rispondere a un'accusa, cioè, che di aver perso un po' di verba. Esatto. Di aver perso un po' di verba, ma noi la verba non la perdiamo mai. E quindi ti volevo subito chiedere una cosa. L'altra volta, l'altra puntata, tu ci hai raccontato una ricetta assurda. Sì, sì. Ti ricordi, sì. Buona! Penso che nessuno l'abbia provata durante questa settimana. Direi proprio di no. E, però ci avevi fatto scegliere tra una vasta gamma di opzioni. Una vasta gamma di opzioni, sì. E ce n'era una che avevi nominato intorno a una capra. E sì. Niente, è rimasta anche tutta la settimana la curiosità, perché non sapevo da dove prendi le tue informazioni. Quindi non c'ho gli inviati, ho aspettato io. Di ho inviati in giro per il mondo, davvero amici ovunque. E questa storia si ambienta in Australia. Ecco, racconta, in Austria, scusa. Ecco, più o meno. No, più o meno lì, non sono vicine, non sono vicine. No. In Australia? Vicino a Cuneo. In Australia c'è un altro inviato, mi ha detto un'altra cosa, magari la prossima alla puntata. Prossima, sì, sì. No, in Austria invece, per la precisione, a Redsburg. Redsburg, un nome parlano questi. Va bene, questa città qua. In campagna, comunque dovete immaginarvi un paesino di campagna, un'itete a punta, sì. Insomma, un classico austriaco. Poi le spiagge austriache sono famosissime. Le spiagge austriache, meravigliose. E niente, c'era un signore. La storia è questo signore che stava placidamente andando con la sua macchina, una sera stava rientrando dal lavoro. Il signor Hauser si chiama. Stava viaggiando lungo la strada di campagna, appunto nelle vicinanze di questa cittadina, quando si è trovato di fronte una capra. In mezzo alla strada c'era una capra. L'animale non si muoveva. Quindi l'uomo cercò invano insomma, il clacson, di sfanalare, insomma, le classiche cose che si che fanno. Che fai quando ti trovi una capra davanti? O un qualsiasi altro animale. Abbastanza spesso. Io, per esempio, sto in campagna, ne vedo ogni sera. E a volte non si levano da davanti. No, il fanale funziona. Il sfanalare. In questo caso? In questo caso la capra se ne fottuta altamente. Non si voleva muovere di lì. Quindi l'uomo, alla fine, non sapendo cosa fare, è sceso dall'auto cercando di spingere via l'animale. Però nel momento in cui l'uomo si approccia alla capra e cerca di mandarla via, la capra svicola via, monta in macchina e muovendosi si chiude dentro la macchina. No, non ci posso. L'uomo impazzisce, guarda dentro, la capra gli mangia i sedili. Il diavolo. Non si dice che il diavolo sia una capra. Sì, un caprone. Un caprone. Però un dice, caprone, vabbè, un caprone. Agile, si chiama qualcuno. Dov'era il cellulare? In dentro macchina. Neanche il cellulare, vedi? Il povero Hauser, non sapendo cosa fare, si avvia a piedi nelle case. Non lì, poteva sfondare con un sasso il finestrino? Sì, ma rischiava una colluttazione sanguinolenta. Con la pericolose. Mani alla gola. Cioè, poi già sua. Ti stai giocando sedili. Ti puoi giocare anche i vetri. Certo. Poi a quel punto la capra avrebbe difeso il territorio. Certo, certo. Probabilmente sì. Anche quindi dicevo, l'uomo si è avviato a piedi verso una casa lì vicino. E niente, bussa, suona, ma non nessuno gli viene ad aprire. Però la porta era aperta e lui entra. Scusate, scusi. Insomma, viene scambiato per un ladro. Quindi viene rincorso dai proprietari della casa, armi alla mano, che lo rincorrono perché lo scambiano per un ladro. Niente, fondamentalmente riesce a chiarirsi. Fondamentalmente i proprietari della casa erano delle capre. O comunque erano d'accordo con la capra in realtà. E questo uomo poco dopo si è suicidato. Sì. Perché non storia veramente. Tragica. No. Per una casa è riuscito a chiarirsi. Da capre. No, è riuscito a chiarirsi, ha chiamato la polizia. E lì poi in realtà la bega si è riproposta perché fa: pronto, polizia? Sì, salve. Senta, mi hanno rubato la macchina. Ho capito, ho visto il ladro. Sì, me lo può descrivere? È una capra. E lì vagliela a spiegare, non li sai per il culo. Quindi rischi la denuncia. O che il ladro non è stupido e non è riuscito ad accendere la macchina e si è chiuso dentro. Tu dici questa capra. Sì, no, sì. No. Però mi sembra un attimino troppo per una capra. È vero, è vero. Un po'. Però, insomma, questa era la notizia. Ti ringrazio moltissimo. Ti ringrazio moltissimo perché non era assolutamente male. Settimana prossima parliamo di canguri. Aspetta, già, e poi la macchina l'hanno aperta. Sì, sì, poi l'hanno aperta, sono riusciti. Okay, e la capra? E la capra a tirarla via con la protezione animali e lui è risalito dalla sua macchina che comunque non era rotta. Probabilmente non aveva più i sedili, non lo specificava l'articolo. Vabbè, ma anzi, chi se ne frega. Anzi, inviato. Adesso ripartiamo con un pezzo e poi con il tasso che ci leggerà qualcosa. Mandiamo un altro pezzone dei Franti. Mandiamo altro pezzone di Stefano Giaccone, di quello che è stato il primo dicembre in polveriera, per chi ci è andato. Però domani noi facciamo il culo a zero. La musica è mia. Ecco, questo c'è sul CD, l'ultimo CD che ho fatto, che è uscito un po' di tempo fa. Ma il testo non è mio. Il testo è una. Viene da. È stato scritto da un compagno che ha un cognome. Ovviamente clamorosamente calabrese, ma che ha un accento piemontese peggio del mio. Lui si chiama Sant'Enotar Nicola. E se riuscite a trovare, parliamo di cose difficili da trovare, un libro della Feltrinelli che si chiama L'evasione impossibile. Uno dei Sante l'ho incontrato una volta sola. Sante era quello che si definisce un rapinatore. E un militante del PC, buttato fuori dal PC dopo gli scontri di Piazza Statuto nel 60, insieme ad altri ex militanti del PC, decidono di rapinare i soldi delle buste paghe degli impiegati alla Fiat Lingotto. Dopodiché, visto che è andata bene la prima, ne fanno altre. I soldi dovrebbero andare a Cuba, dovrebbero, insomma, è una storia molto anche interessante, di barriera, come si dice, barriera di Milano specificatamente. Dico barriera di Milano perché se qualcuno di voi ha a casa il primo disco degli Assalti Frontali, la voce che si sente all'inizio, con questa parlata molto di parla della sua via, di via Cuneo, eccetera, eccetera, parla come me, e Sante che racconta della sua gioventù. E questa è una poesia che lui ha scritto in carcere, Sante è stato in carcere quasi 30 anni, e adesso vive a Bologna. La banda per la quale è andato famoso, per la quale ha fatto un film di Carlo Lizzani che si chiama Banditi a Milano, dove si chiamava La Banda Cavallero, non eravate nati, vi assicuro. Però questa è la storia. Di Sante, questo è il suo testo, si chiama Ricordi di periferia. C'è una parola che se non siete di Torino probabilmente non come si chiama qui dove si va a bere il vino? Una mescita, come si dice? A Bologna c'è un modo di, un posto, quelli vecchi, insomma, un po' di un vinaino. A Torino si chiama Piola. C'è questa parola dentro questa canzone. Oziare di notte lungo i muri, solo tra la nebbia, piole di periferia, strade indifferenti alle luci, portoni improvvisi. E indovinare prossimi prati e laggiù le montagne per fare il tuo discorso. Esausto ancora una volta, le notti di periferia, tornare esausto ancora una volta. Tornare esausto ancora una volta, prima dell'alba. Pronto alla pena di un altro giorno, senza avere sprecato neppure un'ora. Tornare esausto ancora una volta, le notti di periferia, tornare esausto ancora una volta, le notti di periferia, tornare esausto ancora una volta, le notti di periferia, tornare esausto ancora una volta. Ancora una volta, ancora una volta. Grazie. Grazie davvero. E ora... E ora legge Tasso. Ha letto Tasso. Lei comincia a divincolarsi, ma i suoi sforzi rendono più sensibile la sua debolezza e nello stesso tempo fanno ondulare il suo corpo verso il mio. Ora la trascino verso la camera, ma strada facendo mi fermo un po' per obbligarla a stringersi di nuovo contro di me, in modo da sentire bene il tenero strofinio dei suoi seni attraverso la seta sgualcita della camicia. Poi, sempre tenendola, costringo la piccina a inginocchiarsi sul copriletto. Le immobilizzo i polsi dietro la schiena con una sola mano che preme contro l'incavatura della vita e la schiaffeggio più volte, senza fretta. Lei sa che ha bisogno di una punizione. Dopo la accarezzo la bocca con le mani e anche le labbra, ma siccome non si dimostra compiacente quanto voglio, la schiaffeggio ancora senza spiegazioni. Punita per la seconda volta, mi bacia senza reticenza. Allora la faccio stendere servile, sottomessa, pancia in giù. È la posizione che preferisco. Ferma, cara, in difesa. Le faccio risalire la camicia e le spingo giù i pantaloni, dolcemente. Con la punta delle cinque dita sfioro la pelle nei punti in cui è più delicata. Non tanto per interessare la prigioniera. Questo pensiero rischia di farmi sfuggire l'immagine. Non tanto per interessare la prigioniera. Accendo la luce e guardo il cuscino. La prigioniera. Ecco cosa c'è di bello nella masturbazione. Non c'è alcun bisogno di preoccuparsi per l'altra persona. Però guai a distrarsi, guai. Devi essere un tutto unico, testa e tutto. I ragionamenti intermedi sono fallimentari. Fra la tensione del pensiero e il corpo non deve esistere niente. La masturbazione è la prima forma di interezza. E non solo quello. Nessuno ha mai parlato di questo modo di amare. Ma ti rendi conto? In due, sempre in due. Oppure in tanti. Che stronzata in tanti. L'amore in uno è il più perfetto, non ha mai sfasature. È l'unico amore in cui una persona faccia veramente i conti con il proprio sesso. Purtroppo non lo si può raccontare a nessuno, il proprio sesso, diciamolo. Quanto sia acuto, profondo, illimitatamente libero. Si deve andare fino in fondo, fino alle osi più vergognose, che sono poi quelle più vere. Mi fanno ridere quelli che la chiamano disperata solitudine. È una scienza privata e universale, dai. È il rilancio dell'individuo. Ti libera dall'untuosa ideologia del sociale. Ti rende libero dai sofismi della conservazione della specie. E ti porta verso l'immagine pura. È il più alto dovere dei poeti. O lo capisci o non lo capisci. O ce l'hai o non ce l'hai. Non ci si può accedere con la logica. È una verità del cuore. Come la mamma, come la patria. Beh, mi sono esaltato. E ho perso la concentrazione. Vabbè, fumiamo, va. Guarda che casino che c'è in giro, cicche, cartacce, camicie sporche, lenzuola. Che disastro. Però è bello, eh? Tornare a casa la sera da soli, infilarsi sotto le coperte e sapere già come andrà a finire. Ritardare, i piaceri vanno sempre ritardati. Quasi quasi questa sera resisto, così domani è anche più bello. Dicono che faccia male, anche quella lì. Non l'ho mai capita. Ma chissà, chissà quanti saranno quelli che ancora a 40 anni, da soli, non lo saprò mai. E chi te lo racconta? Dai, da piccoli sì, ma a 40 anni. Non so se dormire o tornare ai miei filmini. Dunque, lei era prigioniera. Era prigioniera con le mani incatenate dietro la schiena. No, le catene non c'erano. Ecco, a me sono i dettagli che mi fregano. L'ho persa, ecco, non la vedo più. La lucianina non mi fa più bene, la lucianina. Strane cose, probabilmente è il pensiero che diventa debole. E quando il pensiero si indebolisce... Già, ma chissà quanti saranno quelli che a 40 anni... No, sarei curioso di sapere che tipo di tecnica... Secondo me esistono due tendenze, sì. Quelli della donna astratta. Stupenda, completamente inventata, piena di fianchi, di cosce, di tette. No. No, io sono più realista, sì. Sì, non importa che sia bellissima, deve essere vera. Ecco, la devi capire psicologicamente. Eh sì, perché poi cos'è se no un culo se non si conosce profondamente il proprietario? Non è niente, dai, non è niente. È un oggettone. Le donne che scelgo per... Se lo sapessero, voglio dire, le mie donne, insomma... Sono quelle che incontro tutti i giorni, sì, quelle di cui conosco la madre, il fratello, il cugino, il marito, quelle sposate, le mogli degli amici, stupendo, le faccio parlare proprio con la loro voce, sì, sì, sì, sono precisissimo nell'immagine, i gesti, ognuno ha il suo carattere, ma mai, mai far cose che loro non farebbero, mai, magari che non hanno mai fatto, ma che io so che farebbero, con me le farebbero. Guarda la Barbara, per esempio, come la odio, la Barbara. Dice che è timida, tipico. Dice che ha vergogna del suo corpo, tipico. Ha vergogna del suo corpo e mette su delle gonne che si incolano al culo. Va bene, ha il culo piccolo, lo ammetto, ma se vedi di più, eh? E che fa? Ti incazzi? Sì, mi incazzo perché sono realista. E intanto la Barbara mi va via, mi svapora, mi si indebolisce il pensiero, mi si intreccia con la Cornelia. La Cornelia. La Cornelia è tutto un altro tipo, è isterica, fredda come il ghiaccio, aristocratica, mai un gesto fuori di posto, tutta dentro, bisognerebbe smuoverla, tutta controllata, piena di dignità, sarebbe bello vederla fondere, ti scavo il cervello, Cornelia, te lo tirannizzo, così, così! Basta. Basta. È come... Uno schifoso guazzabuglio di pensieri che si scioglie. È una cascata di sintomi di delirio che gocciolano da tutte le parti. Basta. Che miseria. Ora bisogna abbandonarsi e dormire più che si può. Dormire. Si crede sempre che sia il fondo, quello dello squallore, quello che si è toccato. Chissà se esistono delle forze per andare più in giù. delle strane forze e la prossima volta scendere più in basso. C'è un momento in cui si è veramente soli, quando si arriva in fondo a ciò che siamo di orrendo, di squallido. Ma in fondo, proprio in fondo, il dolore stesso non risponde più. Gli occhi sono asciutti, perché lì c'è il deserto. Strano, non c'è neanche il dolore nella solitudine, quella vera. Gli occhi sono asciutti. Allora bisogna risalire da quel fondo, piano piano. Bisogna ritornare tra gli uomini. Non c'è niente da fare. Bisogna ritornare con gli uomini, anche per piangere. La masturbazione, Giorgio Gaber. Sir, is this the Delta House? Sure. Come on in. There's a war coming down between my breast and I. I don't want no war. Going down tonight. Stop this! Stop this! E questa... E questa era Elisabetta Dove Sei di Recane e suo marito. Che hanno suonato in polveriera il 9 dicembre, che è stata io non c'ero e mi hanno detto è stata una serata incredibile. C'è un tastino sul microfono, vedi un po'. C'è un microfono spento, sì. E ecco Guido. Eccolo là, Guido. Ciao, buonasera Guido. Da Radio Womba, fuoco alle polveri. Non avendolo spento io non sapevo. Eccomi, ok, si diceva che c'era stato Riccardo e suo marito il 9 qua e quello che abbiamo appena ascoltato non è il pezzo. Sì, è stata una serata magica. C'è chi, tra l'altro, fra poco parlerà, l'ha definita una delle migliori performance in quel posto che è la polveriera. E, no, davvero, sanno tenere, creare una magia, è un casino in tre, fanno, veramente bello. Poi con le luci soffuse, un viaggio. Fortissimi, fortissimi ragazzi, sono stati bravissimi. Ho anche avuto la possibilità di parlare con la cantante. Sono, mi pare, di Ferrara, non vorrei sbagliare. Mi sembra anche a me, sì, di Ferrara. Molto molto bravi, anche per come gestiscono gli arrangiamenti e per come sono stati, lo dico da, spettatore, per chi c'è stato, per come hanno gestito da star. Da star. Lo dico da star, lo dico da star. Ecco, secondo me poteva fare di meglio. Questi ragazzi. Ma io a fine concerto il percussionista aveva delle mani di fuoco, cioè, magici, una magici. Cosa, non si è fermato a battere sull'angolo. Mamma mia. E per la serie delle cose che ci sono state a Firenze in questi ultimi giorni, il 10, sabato, per tutta la giornata e per tutta la nottata c'è stata una TAZ, la crepa. E è stata una giornata di riappropriazione lunga, interessante per il pomeriggio in cui era pieno di arte, musica. Esatto, Temporary Artistic Zone. Esatto. Se ne era già parlato la scorsa puntata. Esatto, avevamo annunciato, non si sapeva dove, invece i ragazzi che sono venuti qui ci hanno parlato appunto di questa TAZ, di quello che sarebbe stato. È stato un bellissimo evento per chi ha partecipato, veramente una bella espressione di quella che è questa realtà fiorentina e di come si sa autogestire, si sa far sentire in queste occasioni. Il 9 infatti era il giorno delle sentenze per Via Toselli e questo era un appuntamento per rilanciare quell'evento, quella situazione. Ma soprattutto la cosa che si sentiva di più e quello che penso sia uscito anche dall'intervista scorsa è stato proprio lo spirito che aveva mosso Toselli ai tempi. E infatti proprio una TAZ, il senso di Temporary Artistic Zone, perché c'era tanta arte, gente che ha dipinto per terra. Questa ragazza è una figata grossissima, perché certo hanno fatto della roba bellissima. Io ho visto era tipo caduto del colore a qualcuno per sbaglio e hanno creato, e c'erano tutti i passi blu. Oppure l'albero, c'era un albero in terra che... È vero, che sbucava dietro le colonne. Incredibile. O radici, forse più radici essendo in terra. Una bellissima situazione che speriamo verrà presa come tale. Io spero che sempre più persone capiscano la necessità di questi gesti e la componente davvero positiva, il regalo che si fa alla gente attraverso queste manifestazioni autogestite, autonome, sentite, insomma. Bella abbiamo parola, qui un ospite che ci racconta un po' proprio quel giorno, no? Da testimone oculare. A parte c'eravamo anche noi, ma insomma. Ma ciao Rocco. Ciao, sono Rocco. Volentieri vi racconto. Non mi sento? Ci sei. Ci sono, bene. Fuoco alle polveri. Sto parlando? Ci sono? Ci sei. Perfetto. Ci sei. Scusate, c'ero. Sono ancora confuso. Vai, parla. È stato un momento veramente emozionante. E, tra l'altro vi dico, per cominciare, una cosa che riguarda i commenti. Oggi leggevo sui post di una persona che si occupa di feste techno da anni, che la festa gli era sembrata talmente strana, talmente impossibile, che poteva essere solo frutto dell'accordo con gli sbirri. E io gli ho detto no ragazzi, è semplicemente fatta da gente inesperta in una città che non è abituata a vedere delle feste in centro. Che guardie. È andata bene, cioè non è il frutto di un accordo. Di un accordo, no. Pensiamo la festa è andata molto bene, nessuno si è fatto male apparentemente. È stato veramente un'esplosione di espressione artistica interessante e spero insomma replicabile. No, assolutamente. Poi di tutti i tipi, no? Cioè ci sono state anche letture, musica, letture, arte, poesia, ogni genere di performance, presentazioni di libri. Fino a una certa ora sono stato in grado di discernere, poi è diventato tutto un po' più nebuloso. Stream of consciousness, sì. Vi dico anche un'altra cosa al volo, due cose che abbiamo comunque registrato, una serie di set fatti lì alla TAZ, sia da me che da un ragazzo molto bravo che viene da Machine Funk, Imer, e quindi presto saranno, vuoi che lo mandi così senti se ti arriva? Proviamoci. Sì, no. Presto saranno disponibili anche in podcast. E poi vi vorrei anche ricordare l'evento di domenica 18. Volevamo chiedere questo. Ragazzi, la prossima domanda. Non ci bruciare. La prossima domanda. Vabbè, comunque, semplicemente, cosa succede domenica 18? Beh, succede domenica 18, c'è l'evento prenatalizio Gremlin, l'occasione, diciamo, del prenatale, che è Machine Funk in polveriera, la jam che dura tutto il giorno dalle 11 alle 11 e poi un aperitivo DJ set con Claudio Capitoni, Lauton e Danilo Lenzi, che sono comunque dei collezionisti vinile pazzeschi e dei DJ di grandissima levatura. E, insomma, Machine Bello. Funk. Wombat. Wombat. Mm-mm. Ma dice due parole, già che ci sei, anche su Machine Funk in generale. Vi dico in generale che cos'è il progetto Machine Funk. Già che ci sei. Un collettivo musicale che si è formato accanto e all'interno di quello della Polveriera, che però insomma si può ramificare anche in altri luoghi, che fa politica, socialità e cultura con la musica, diciamo senza bisogno di ulteriori giustificazioni. L'obiettivo di Machine Funk è di portare i mezzi di produzione musicale alla portata di tutti, di far incontrare musicisti talentuosi e poveri con persone invece meno talentuose e ricche che hanno le macchine, di far incontrare persone che vengono da appunto situazioni diverse che altrimenti non si incontrerebbe, di formare quindi una scena musicale fiorentina al di fuori del mercato, il che permette poi anche un'espressione artistica più sincera, perché ovviamente il mercato ti richiede di essere riconoscibile. Per ora abbiamo fatto, mi pare, 4 se non sbaglio, 3 grossi eventi qua in Polveria, sono andati tutti molto bene e assolutamente ci stiamo, diciamo, affinando nel tempo, non siamo partiti perfetti. Avete anche un laboratorio? Abbiamo anche ogni mercoledì un laboratorio musicale qua in Polveriera, più confidenziale e tranquillo, noi lo chiamiamo comunque Jam Session, e mi sembra che mi facciano segno di chiudere e vi saluto. No, ma finisci un attimo il laboratorio. Che spazio il laboratorio è, nello spazio della Polveriera, si può, diciamo, venire, portare le proprie macchine, usare quelle degli altri, imparare a fare qualcosa. Ci saranno anche dei workshop di autoriparazione e autocostruzione di sound system. Però venite a dare un'occhiata ogni mercoledì. Bene, bene, assolutamente. Grazie. Invitiamo tutti, anche chi è appassionato di musica elettronica. E, o chi invece vuole sapere e imparare, perché alla fine il laboratorio è anche quello, dare la vostra esperienza, lunga esperienza, a chi invece ancora è alle prime armi. E sì, mi raccomando, soprattutto venite il 18, andate il 18 in Polveriera, che sarà una grande serata. Un ultimo commento al volo, il laboratorio va in due direzioni, noi impariamo tantissimo dalle persone che vengono, anche se sono più piccoli di noi o più inesperti. La musica è così. Ah sì, sì, certo. Viva. Molto bene. I want you to close your eyes and visit the most beautiful place in the world. If you're in the hood, in the ghetto street corner, come on this journey. The best journey. Some mansion. Acres of land and swimming pools and all that. Check it out. I'm capable of anything. My imagination can give me wings to fly like doves over the streets watching many things. Kids walking home from school on drug blocks. Missionaries pass out papers that read love God. I see faces, cases, judges and jurors, masons, lawyers and cops. I watch cause every thug's face is my mirror. But this was every morning calls his comrade to come and get him to smoke. He insane, already gone mad. Blames himself for his setbacks. Dangerous street corners where his set's at. Sling from dusk to dawn. Detectives act like they maniacs chasing him. His asthma's flaring, smoking like a chimney on Remy. Of course he not caring. He need a place to go to keep his mind expanding. I give him a helping hand and bring him out to Thug's Mansion. Every corner, every city, there's a place where life's a little easy. Little Hennessy, laid back and cool. Every hour, cause it's all good. Leave all the stress from the world outside. Every wrong done will be alright. Nothing but peace, love street passion, every ghetto needs a thug. Dear mama, don't cry, your baby boy's doing good. Tell the homies I'm in heaven and they ain't got hoods. Seen a show with Marvin Gaye last night. It had me shook, drinking peppermint schnapps with Jackie Wilson and Sam Cooke. Then some lady named Billie Holiday sang, sitting there kicking it with Malcolm till the day came. Little Natasha show grown, tell a lady in the liquor store that she's forgiven. So come home, maybe in time you'll understand. Only God. Sta roba segna rite come disco di Cosangre. Eccoci, ciao. Eccoci. Allora, ringraziamo Rocco che è venuto a parlarci di tutto il suo lavoro. No, e di molti altri. Sì. E adesso è un momento di passare la voce a una voce che non sentiamo da un po'. Sì. Sì, eccolo, è il momento grippico. Il momento grippico in cui semplicemente noi vorremmo ridire quello che passa su Radio Wombat, il palinsesto. E però volevamo far spiegare al nostro amico, al nostro amico Grippo che ne sa. Che ne sa. Chi so? Grippo, come che sai? Sai tutto? Le so tutte. Allora, aspetta. No, che so. Allora, abbiamo il lunedì dalle 17 alle 18.30, fuoco alle polveri e siamo noi. E questo è facile. Ciao. Insomma, se lo state ascoltando avete capito che lei. Alle ore 20 abbiamo l'urlo del cretino. Mi dicono squinternato, irriverente, matto, spasso, contro ogni logica, ogni sintassi, contro. Musica da far girare la testa, punk blues, rock and roll, psychobilly, garage e tutto il marcio dell'underground. Attento a tutto ciò che accade in città e nei più pozzolenti sobborghi d'Italia. Quindi insomma musica, cioè, è viva e il più interattivo possibile, accessibile agli ascoltatori con possibilità di intervento in diretta. Nella radio di tutti, il programma per i cretini. Fortunelli. La cosa in diretta è bella. La voglio anch'io. Dai retta ai Wombat, dicono anche loro. Quindi diamo retta ai Wombat. E tutti lo diciamo. All'ora 23, diretta la revancia, e qui si va sui punk, che è il punk in tutte le sue forme. E la vendetta del punk, la revancia, insomma, viva punk. Viva. Poi, martedì alle ore 19, abbiamo il rovescio della medaglia, che invece è un programma progressive, il rock progressive italiano dalla A alla Z, un percorso alla riscoperta di dischi, gruppi, personaggi e suoni che hanno fatto la storia del rock degli anni 70. Dopodiché abbiamo il mercoledì. Il mercoledì alle 21 si va con Slick Chick, racconti dal profondo rock and roll, un disco, un anno, un paio di scarpe, una città, tutte scuse per ascoltare un sacco di musica, tutti i tipi di musica, quindi dal rock a un po' di tutto. 22:30 abbiamo 8 Hertz, musiche, suoni, rumori, pensieri, si formano, si legano, si dissociano, rompendo le barriere del tempo e dello spazio. Abbiamo invece devastante. Devastante. Giovedì alle 19 abbiamo l'Accademia della Brusca. Che mi piace la parola brusca. No, brusca. Mi piace la parola brusca. Un po' bracco. Sì. Sì, un po' come bracco. Sì, sono quelle parole che mi ispirano. Accademia della Brusca, la lingua non è mai stata così aspra. Da retta ai Wombat che ti imparano la tua bisca linguistica clandestina per andare in barba ai letterati con la giusta miscellanea di sintassi e trash music. Il venerdì e il sabato abbiamo allora venerdì grande, la brusca. Venerdì alle 21:30 Uhuru, dalla Casbah di Orano al Township di Johannesburg, dalla Coral Selengalese al Clare Etiope, suoni, rumori, voci e qualche notizia dal continente africano, quindi musica africana. Venerdì alle 21:30, non ci ho capito un tubo di cosa. Mi fa ridere tantissimo. Sì, è vero, non capisco un tubo. Presentatrice della Rai. Tonight è live. Invece ce l'abbiamo il sabato alle 22:30 e sono concerti storici, DJ set memorabili, ma anche registrazioni in presa diretta dalle location cittadine. Bella. Live, soprattutto live, mega live. Abbiamo domenica, poi anche alle 16:30 abbiamo La Fuga del Gatto, musica classica antica, e mi è piaciuto che c'è scritto il ripiglino della domenica pomeriggio, cioè il ripiglino della domenica pomeriggio ispira. Un momento importante. Il riagguantino della domenica pomeriggio. Ore 17:30 invece, ultimo programma, 3000 siepi, che è il penultimo ostacolo, c'era una vasca piena d'acqua, e dopo un altro ostacolo ancora. Facezze, pensieri, riflessioni tratti da storie di sport, fatica e sudore. Sport, fatica e sudore. Ci ispira anche questa. Sì, ti ispira. Un palinsesto variegato, stay tuned. Che probabilmente crescerà ancora. Sì, esatto. E molti programmi. Basta, ora non avete più scuse, cioè sapete tutto. Sapete tutto. Ora, cioè, perché la scorsa volta avevamo letto solo i titoli, questa sì, girata. Un po' abbiamo letto anche le presentazioni. La prossima volta ve lo spieghiamo anche. Sì, ogni volta. Facciamo anche l'imitazione la prossima volta. No. Basta. Adesso noi manderemo un pezzo e dopo il pezzo ci sarà la quella bellissima rubrica che è Impastando si impara della nostra che amica Kate. Sempre venire, un sacco di fan. Un sacco, ci fa sempre venire. Poi l'ora ispira anche. Via col pezzo. Somebody wanna put you down. Somebody wanna put you down. Somebody wanna Impastando si impara. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china. Ciao Kate. Ciao Kate. Ciao Kate. Ti riconosciamo anche dalla tua canzone di sottofondo ormai. Con la mia canzone di sottofondo? Poi ne sceglieremo, poi cambierà, mi sa. Ok, mi hai fatto. Punge questo microfono. Eccoci. Che allora, ci racconti? Oggi vi racconto la regina delle creme, la nostra italiana, la crema pasticcera. Oh, viva! In concomitanza con queste prossime feste, magari. Bella carta. Bella carta. Bella carta. Sì, sì, sì. Bella carta. Il pandoro. Tante maniere. Sì. E quindi niente, allora, crema pasticcera, ingredienti, premessa. Premessa, scusa. Premessa. Allora, io quando penso, quando devo fare la crema pasticcera, la prima cosa che penso è quante uova ho, quante uova voglio usare. Questa è la partenza, diciamo. Ora, avendo provato, perché ci sono creme con due uova, creme con quattro, cioè si parla di tuorli comunque, poi vabbè ci sono scuole di pensiero diverse in cui si mette magari due tuorli o un uovo intero, io metto solo tuorli per esempio perché viene più gialla la crema, più buona. E niente, e quindi avendo provato 6, 4, 2 uova eccetera eccetera, alla fine una delle migliori secondo me, che ci sta anche per condire una torta, che comunque dose giusta, è con 4 tuorli. Ok. Numero perfetto 4. 4 tuorli e quindi 4 tuorli, 400 grammi di latte, 100 grammi di zucchero, anche meno, come la stessa discussione della torta. Ne togliamo sempre un po'. Indicativo. E 60 grammi di farina. Ok. Allora, dipende come vogliamo fare questa crema pasticcera, che retrogusto gli vogliamo dare. Una delle prime cose da fare è prendere il latte, per esempio, se si vuol fare vanigliata, no? Bacca di vaniglia. Si fa bollire il latte con la bacca di vaniglia oppure con la scorza del limone. La bacca di vaniglia costa tantissimo. Costa tantissimo. Cioè, infatti poi si svolta con i chimiconi. Capito, con quelle vaniglie. Però si evita. Triturare, no? Si fa al limone, si fa al limone o all'arancia. Al mercato magari vendono la bacca di vaniglia, chissà. Beh, ci sta. Ci sta, chissà. Ci sono i venditori di semi, quelli che vendono i chiodi di garofano, queste cose. Ci sono, a Palermo ci sono, vendono tutte spezie orientali, questi pakistanini, belli. buoni fornitori. E niente, quindi la prima cosa che si fa è riscaldare il latte con il retrogusto che gli vogliamo dare, poi si lascia però intiepidire. Si porta a bollore, il latte deve sfiorare il bollore e si spegne. Non bisogna fare bollire il latte perché poi... Cosa tutte quelle cose brutte che... Non deve bollire. Deve arrivare, deve sfiorare il bollore e si spegne e si lascia raffreddare, ok? Dopodiché prepariamo i tuorli nel pentolino, scegliamo un bel pentolino, i tuorli, con lo zucchero. Allora, una piccola parentesi, io evito di usare utensili di metallo quando preparo i dolci, perché o legno o anche quelli in silicone, perché il metallo agisce in maniera strana con gli alimenti, spesso anche quando si fa il couscous si tocca con le mani o con un mestolo di legno, perché sennò si spappola. Ok, importante. Piccoli, sì. Non ci garba il metallo. Non ci garba il metallo, esattamente. Quindi si monta... A differenza di quarto potere, diceva. E quindi anche il medioevo. E quindi anche il medioevo, sì. No, siamo per il più naturale possibile. Quindi niente, si fanno i tuorli con lo zucchero, si sbatte bene, questa fase è importantissima, come per la torta. Senso i tuorli orale. Devono montare con lo zucchero perché i granelli di zucchero si devono sciogliere proprio nei tuorli, deve risultare proprio... schiumonico e perplesso, che cosa succede? Vai, non ti preoccupare. Gli torna lo sbattere le uova. No, ragazzi. Niente. Andiamo oltre. Nicco. Scavalchiamo Nicco. Quindi tuorli, zucchero. Dopo lo zucchero, quando è ben incorporato, aggiungiamo la farina piano piano setacciandola. Questo è importante, sempre con il mestolino e sempre nel famosissimo senso orario. Sì, dell'emisfero nostro. Nostrum emisfero. Voi che ci ascoltate dall'Australia, attenzione. Quindi noi... Giriamo, mettiamo la farina, incorporiamo per bene e poi il latte perché si fa raffreddare, perché qui piano piano cominciamo ad aggiungere questo tutto ciò a fuoco spento. Ok? Aggiungiamo piano piano il latte e facciamo sciogliere questa cremina che nel frattempo si è creata piano piano, perché se il latte è caldo va a cuocere subito l'uovo e quindi giusto. Può fare i grumi, ok? Dopodiché quando abbiamo messo tutto il latte accendiamo di nuovo il fuoco e lì ti metti santa pazienza, ti armi a girare piano piano sempre, perché sennò poi giù magari si attacca alla pentola. E niente, la crema lo vedi quando diventa crema, è proprio sono quei 40 secondi in cui vedi che la bollicina viene su e dici ok, allora qua ci siamo, tutti. È crema. Fermiamo il mondo, mettiamoci lì, è importantissimo, dare magari col pettino più veloce, così non fa i grumi. Poi si spegne, quando è bella densa. Ma la cannella e il limone? Poi sì, io... Mia mamma ci metteva sempre la cannella e il limone. Io ci metto la cannella, ci metto il limone e ci metto anche una cosa che i disgraziati pasticceri siciliani... fanno questa crema pasticcera giallissima, che cosa ci fanno mettono la pipì dentro? No, quelle sono tutte leggende. Cosa ci mettono dentro? I lupini. C'è chi dice così, aiuto. Cosa ci mettono dentro? Lo zafferano. Ah. Disgraziati che sono. Che gioia. Perché a Palermo abbiamo lo zafferano che è tipo una polverina arancione, come quello marocchino in sostanza, che non è il pistillo. E quindi non ha troppo gusto e colora. Ah, ma quindi solo per il colore è una questione solo estetica? Sì, secondo me è una questione estetica. Vabbè, gli dà anche estetica. Un po' di sapore. Comunque. Ma non più di tanto. Tu immagini farlo però con lo zafferano torte buono, chissà che vittoria. Sì, quello torte sì. Lo zafferano certo. Sono buonissime. Sì, ma certo. Il sapore glielo dà assolutamente. Non è mai capitato. Poi questa è la ricetta base, diciamo. Okay. Poi comunque quando si spegne il fuoco, che la crema è bella densa, attenzione sotto perché di solito tende a bruciare. Attaccarsi anche. Comunque si dovrebbe continuare a girare a fuoco spento per altri 2-3 minuti, diciamo. Quindi, le cose da non fare, cioè non far bollire il latte, non va fatto bollire, bisogna fermarlo. Fermarlo quando sfiora il bollore. Non usare roba di metallo. Farlo non usare, bravo, un'altra cosa. E girare sempre la crema. Farla raffreddare. Se no cuoce l'uovo. Non fare le puzze e non fare i rottini nemmeno, mi pare. Quello forse anche. Sei da solo. C'era stato anche un passaggio setacciare la farina. Per me non è così scontato. No, non è scontato, perché anche per le torte, per qualsiasi cosa, la farina si diciamo, diventa leggera, sì, non rimane a groovy. Poi comunque, se dopo mezz'ora che siete lì che bolle ancora è molto liquida, buttate sempre setacciando magari un cucchiaio o due di farina, così si se succede questo diventa piccolo potrebbe capitare. E poi niente, varie varianti con la cannella, con l'arancio e il limone. Una volta tipo mi hanno chiesto di farla alla banana. La banana. Sì, la crema pasticcera alla banana. Io allora che ho fatto il passaggio del latte, ho frullato il latte con la banana, ho fatto quella discussione, poi l'ho filtrato e ho fatto la crema pasticcera con il latte aromatizzato alla banana. Il latte non è buono comunque. Sì, per chi piace la banana, a me tipo... Non costringiamo. Era buona. O con il succhetto delle fragoline. Già le fragole ce le sento di più, come sapore. Quindi poi magari fate una frolla, mettete questa cremina sopra, frutta fresca, per esempio. E vola tutto. Noi facciamo frolle a diritto, tutti i giorni a frolle. Io ti giuro che faccio frolle a diritto a casa mia. La notte torniamo a casa all'una e mezza e facciamo le crostate come i panettieri. Ne sfrolli a diritto. Sfrollo di brutto. Bene, ora sai come fare la crema. Grazie, infatti. Grazie, tesoro. Dice Louis XIV, la grande amante della crema. Sì, dice proprio gli garbava tantissimo. Buon gustaio. Sole. Sì. E dice la crema chantilly era quando mancavano le uova, ci hanno messo dentro la panna a chantilly e quindi c'è la crema chantilly. Però è anche buona. Pensate, la crema chantilly. Abbiamo anche la nota storica, grazie Grim. Davvero? Ho visto il filmino a francese. Quando ero piccino. Poi un'altra cosa, se volete fare la crostata, per esempio, se volete fare la crostata con la crema pasticcera e la frutta, a Palermo solitamente tra la frolla e la crema mettono uno strato di cioccolato fondente. Wow. Con questo vi lascio e ci sentiremo magari in diretta da Palermo la prossima settimana, vedremo. Sì, speriamo. Vedremo. Sì. Grazie, bello. Grazie. Ciao. Impastando si impara. E grazie Cate, grazie mille per questa bellissima ricetta che faremo. Ma bisogna iniziare a fare un po' le ricette della Cate, effettivamente. Sì, assolutamente. Sempre, sì, tipo. Tipo sempre. Ora, dopo si va. Sì, ma ci sanno le ova? Quante ova ci sanno? Quante ova vogliamo? Questa è la domanda da quattro. Sì, quante ova ci abbiamo, quante ova vogliamo usare, erano i passaggi. Sì. No? Ah, sì. Ebbene, dai. Mandiamo un pezzo. È quello che stavo per dire. E dopo c'è la rubrica di Mancava. Assolutamente. Beh, perfetto. Le musichette buffe. Il silenzio che incanta, una voce canta stanca, segue il senso della sabbia, giù un sereno e scaldo l'aria. Non lo videro, no, lui li raggiunse in un soffio, ogni corpo svanì. Simula, cala, poi sibila, sale, supplico e ricopre ogni linea. Il sole era già sceso da tempo sulle sfinge egizie, quando Cambise decise di annettere, prendersi tutte le terre limitrofe. Solo l'ultima tappa resisteva alla scesa del figlio di Ciro, un'oasi ricca di date e acqua, là sulla lunga valle del Nilo. Dopo aver superato il Sinai e Sinsino lì piegato ogni stato, dopo aver ucciso il faraone e trucidato il toro sacro, lui Cambise non pagò con un solo cenno del capo, orcò di radere al suolo e mettere a fuoco il noto luogo dell'oracolo di Amon. Giunse dal vuoto al tramonto di fuoco e travolse col suono ogni corpo sul suolo. E fu la brama di un re sadico, avido di potere teocratico, o per vendetta sull'oracolo magico che volle prevederne il parto. Ma una volta giunto a Tebe, divise le truppe in due gruppi, due schiere, poi spinse la prima verso Nubia, l'altra verso Cirene. Avanzava ignara la carovana umana, frustata dalla lama dell'Afa. In un deserto aperto una nenia berbera suonava lontana. 50.000 da mercenari lamiti, greci, fenici, marciavano verso i confini uniti alla stessa armata persiana. Come al centro di una danza, sali in cerchio l'aria calda, giunse il vento sulla landa, li travolse e volse all'alba. Non lo videro, lui li raggiunse in un soffio, ogni corpo sparì. Simula, cala, poi sibila, sale, suo obliquo e ricopre ogni sinistra. Quando avvertirono il primo soffio da sotto i soldati non ebbero cura. Erano veterani del deserto, esperti, abituati ad ape d'arsura. Ma dopo 7 giorni di marcia fra le secche di sabbia videro l'oceano bianco notare faccia sull'altura di ogni duna. Conoscevano i rischi delle spire del mare di sabbia fine, le colline che si aprivano creando slavine improvvise fra le file, le lande di rena sottile che inghiottivano vite e decine. L'ordine di proseguire fece fuggire le stesse guide beduine. Giunse dal vuoto al tramonto di fuoco e travolse al suo suono ogni corpo sul sole. Ardeva il mare bianco solcato da sciami di grani pini, scambiato nell'abbaglio del sole alto come soffio calvo del ghibli. Ma il cielo si fece viola in un'ora per la sabbia in sospensione, procedendo da ogni roccia rosa all'invasione di nasi e gomme. I primi morti avvolti dalla furia dei forti vortici fra i mani, i salti, i calci delle bestie rese foglie liberatesi dai carichi. I soldati caddero esanimi, molti sepolti dai grani bianchi. Il silenzio dei corpi sotto le nuove forme ridisegnate dal camis. Del silenzio che ti incanta, una voce canta stanca. Segui il senso della sabbia, giunse lento e scaldo l'aria. Non lo videro, non lo udirono, lui li raggiunse in un soffio, ogni corpo svanì. Musichette buffe! E rieccoci. Ciao Marchino. Ciao. Ciao. Allora, io dopo questa effervescente puntata ritorno, come al mio solito, a mettere un po' di tristezza. Grazie. Si sa, parlare l'entusiasmo è una delle cose che mi diverte di più in assoluto. E nulla, di cosa parliamo oggi? Di cosa, sì, ecco. Allora, pensando a, guardando nel mio lettorino MP3 le canzoncine che ho, cercavo qualcosa, visto che l'altra volta era andato su, come dire, musica un po' più ascoltabile. Sì. Ho detto, no dai, non esageriamo. Non esageriamo. Mettiamo cose che piacciono a me, 5 altri a Firenze, qualche altro da qualche parte del mondo e basta. E nulla, per l'appunto mi sono imbattuto in una canzone con cui sono fissato ultimamente, tipo almeno una volta a settimana me l'ascolto, fino a qualche settimana fa anche una volta al giorno. Okay. E nulla, perché mi è venuto in mente di proporre questa canzone? Perché martedì scorso purtroppo è stato l'anniversario di ciò che ha portato a scrivere questa canzone. Cosa è successo martedì scorso, ovvero il 6 dicembre? Era l'anniversario del 6 dicembre 2008. Il 6 dicembre 2008, in Grecia, e per la precisione Atene, cosa è successo? È successo che, ora con i nomi sbaglierò tutto, ma sono perché il greco non lo so, e quindi ci provo. È successo che nel quartiere popolare di Exarcheia. Questo è giusto. Ok, dai, sono bravo. Due poliziotti si stavano allontanando in macchina dopo aver avuto un diverbio con dei ragazzi. Trovano un altro gruppo di ragazzi vicino a un incrocio. A quel punto contattano i superiori dicendo che si vogliono fermare. I superiori ordinano ai poliziotti invece di andarsene, di tornare in caserma. Loro se ne fregano bellamente e nulla, parcheggiano la macchina e vanno incontro a questo gruppetto. Da lì parte una lite che si risolve in modo alquanto buffo, perché insomma erano ragazzi di 15-16 anni più o meno. Si risolve con uno dei due poliziotti che prende la pistola d'ordinanza e spara 3 colpi. Spara 3 colpi, uno di questi uccide un ragazzo di 15 anni che si chiama Alexandros Grigoropoulos e che muore ancora prima dell'arrivo dell'ambulanza. Allora, inizialmente la polizia, ovviamente, cosa fa? Dichiara che era stato fatto fuoco in risposta all'attacco dei giovani che avevano aggredito i poliziotti con pietre e bottiglie. Diversi testimoni oculari e pare anche un filmato poi hanno dimostrato, no, che sono stati proprio i poliziotti a provocare. Ok, addirittura. Ok, quindi figuruccia, poi c'è stata l'indagine, il poliziotto è anche stato condannato all'ergastolo. Ciò non toglie che i greci non l'hanno presa molto bene. I greci non l'hanno presa molto bene e per il mese e mezzo successivo hanno messo a ferro e fuoco letteralmente la Grecia. Una breve narrazione dei fatti, insomma, dei giorni successivi. Allora, fin dall'ora successiva alla morte di Alexis, ci sono state violentissime proteste nelle strade del quartiere e nelle zone vicine e in altre 25 città della Grecia. Questo nell'arco dell'ora successiva. Quindi. Dopo la mezzanotte la protesta si sposta nel centro di Atene, nella parte insomma più, come dire, più commerciale, con nel centro, così, turistica, esatto. E già all'alba della domenica il bilancio era di 24 poliziotti feriti, 31 negozi, 9 banche, 25 macchine distrutte. Okay. Questo è non sono passate neanche 24 ore. Da lì la domenica continuano le proteste, altri 13 poliziotti feriti e nel frattempo vengono arrestati 22 manifestanti. Bene, da lì scoppia il finimondo, perché più o meno ogni giorno successivo le proteste continuano, si inaspriscono, si parla di lanci di Molotov, si parla appunto di macchine bruciate, banche divelte, perché ovviamente stiamo parlando del 2008, ovvero in un periodo in cui non c'era ancora la crisi economica. Stava arrivando. Ma esatto, diciamo, la Grecia era in una situazione abbastanza drammatica, che poi appunto sfocerà in quella che è la crisi e insomma, che è venuto dopo. Esattamente. E nulla. Questi episodi appunto sono durati, per rendere un minimo l'idea, più o meno ogni giorno fino alla fine dell'anno e poi un po' più sporadicamente per tutto il mese di gennaio. Da qui, insomma, tutto questo, questa triste storia, per introdurvi una canzone che è di un gruppo, di un duo francese che si chiamano Carisan. La canzone si intitola Cops, Pigs, Murderers. Perché? Perché era il grido, il coro che è stato cantato in tutti questi giorni di rivolta in Grecia e nelle altre città. In greco, ci provo, sarebbe Bazzi, Golonia, Zolofoni. Ok. Bazzi, Golonia, Zolofoni. Sì, giusto per dirlo, perché alla fine della canzone poi viene ripetuto a oltranza questa... È una cosa tipo pronuncia. Tout le monde teste la police, esatto. Una cosa del genere. Se riuscite a capire l'urlato, il growl, dicono Wonder questo. Ah, ok. Allora l'addizione non sarà... E nulla, questi sono i Carisan, duo, la musica è Sludge. Non vi spiego cos'è lo sludge, ve lo faccio sentire direttamente. Grazie. Eccoci. questa era la Zolofoni Bazzi Gulunia. Al contrario, Bazzi Gulunia. Però lui le diceva Zolofoni Bazzi. Ah, certo, perché la partita prima è riverbero, l'eco. Va bene. Comunque, con il pretesto dei insomma di anniversari più o meno tristi, in realtà questa è stata una settimana ricca di cose che potrebbe valere la pena ricordare, quindi faccio un breve excursus, in realtà sì, mi è funzionale anche per poi presentare la prossima canzone. Okay. Un altro, appunto, un'altra data che può valere la pena ricordare è quella dell'8 dicembre, che era giovedì scorso, è la festa dell'Annunziata, ma non mi della Madonna, non me ne frega un granché. Immaginavo, per l'Arcangelo Gabriele, per niente, ma perché nel 2005 invece qua c'è stata una vittoria, ovvero siamo in Valsusa e la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005 venne sgomberato, anche lì con discreta violenza, il presidio di Venaus, che era sui terreni, insomma, che è sui terreni dove deve essere costruita la TAV Torino-Lione. E nulla, dopo due giorni di blocchi stradali, di scioperi, c'è stata un'enorme, per fortuna, mobilitazione. La mattina dell'8 dicembre un corteo di 10.000 persone si è diretto verso Valaus e si è riappropriato del presidio, riuscendo a sconfiggere, insomma, le ingentissime quantità di poliziotti in tenuta antisommossa che mestamente si sono dovuti ritirare in un angolino e stare a guardare. E quindi questa ricordiamo quei momenti, è una cosa che vale le immagini la pena. Che arrivavano poi un'altra che potrebbe essere interessante, che non è ancora venuta ma è di qui a breve, ovvero è il 14 dicembre. Il 14 dicembre del 2011, poi si vedrà che queste date, comunque sia, per quanto situazioni molto diverse, un filo conduttore ce l'hanno. Cosa è successo il 14 dicembre 2011? Il 14 dicembre 2011 era il giorno in cui c'era il governo Berlusconi qua in Italia. Uh-huh. E c'era una votazione molto importante perché doveva essere data la fiducia o la sfiducia al governo. Certo. Lo ricordiamo tutti con le lacrime agli occhi. Tutti con le lacrime agli occhi, perché grazie a Scillipoti e Razzi il governo è rimasto. Politiche di elevato spessore, sì, eroi, eroi. E che non erano neanche di Forza Italia. Patria della patria. Eroi, pater patria. Ripatri patrie. Contestualmente a questo, a Roma erano state chiamate due manifestazioni. Una era della FIOM, dei centri sociali, diverse, insomma, centri sociali, che cosa brutta. Però insomma, esatto, diciamo che la stampa istituzionale, i famosi antagonisti, definisce, esatto. La prossima puntata ci prepariamo con i beep. Chissà chi sono, esatto. È un corteo di studenti. Per dirla in breve, tanto insomma sono episodi abbastanza recenti e penso ci si ricordino un po' tutti, per 4 ore, in particolar modo gli studenti, sono riusciti a mettere in seria difficoltà la polizia, che ci ha messo più di 4 ore per riuscire a placare gli animi, insomma, di gente che persone evidentemente non ce la facevano più. Ok, e nulla, questa è un'altra cosa che valeva la pena ricordare. E l'ultima, su cui mi ci soffermerò veramente pochissimo perché la storia è stranota, è oggi, che è l'anniversario della strage di Piazza Fontana. Ah sì. Uso la strage di Piazza Fontana, sappiamo tutti, siamo arrivati, la giustizia italiana è arrivata a una conclusione nel 2005, quindi insomma ci ha messo pochino. Oltretutto riconoscendo appunto che era un attentato fatto da Franco Freda e Giovanni Ventura di Ordine Nuovo, che però non sono stati condannati perché erano già stati imputati per la stessa cosa nell'87, erano stati assolti, esatto. E quindi non sono più condannabili. Bene, da qui parto lanciando la seconda canzone, che è di un gruppettino svedese che si chiama Neon de Plugan, scritto Neon de Plagan. Lingue facili oggi. Sì, che significa la nonna piaga. Uh-huh. Che fanno un... diciamo, la canzone che vado a prendere è dell'ultimo album, e quest'album è più post-metal, screamo, giusto per dire parole, certo. Insomma, così mi guardate con la faccia inebetita. In effetti. È una canzone che si intitola, anche qua farò ridere a pronunciarlo, però so anche cosa significa e di cosa parla, Leveller Do, che è una canzone che parla di antifascismo. E, dell'importanza della lotta antifascista e di quanto l'antifascismo debba essere considerato e possa essere considerato solo come autodifesa. Nulla, quindi questi sono i Neon de Plugan con Leveller Do. E nulla, questi erano i Neander Plugen. Leveller 2 significa vivere o morire. E insomma, sperando si è capito in fondo qual era il filo conduttore di questo piccolo intervento, di questo piccolo promemoria. Insomma, buoni e cattivi. Faccio un disegnino. Vi saluto. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, Markov. Alla prossima. Sempre meraviglioso. Ciao. Ci vediamo settimana prossima, Markov. No. Non ci dispiace. Non no. Ci sarai? No, non ci sarò. No, anch'io ogni tanto vado a fare il bravo fratello, mettiamolo così. Bravo. Oh. E sigla. Musichette buffe! Wow! 76. Tre studenti a Torino, mettiamo su un complesso. Lo chiamiamo Franti, bastardi noi, bastardo lui. Ci mescoliamo dentro tutto quello che incrociamo. Musiche, poesie, film, cortei, manganellate, cartoni alla TV, Gustavo Kojak, Muppet Show, Pavese, Dostoevsky, Buzzati, Che Guevara, Le pietre alla pula. Ci mescoliamo con tutti quelli che strenuamente vogliono la luna, quella piena della gioia senza limiti, eppure quella nera del turbine nascosto che spazza nel cranio, un attimo prima e un attimo dopo il sonno. Ci teniamo le nostre case e foto, le parole e ci teniamo i compagni, ci teniamo a noi e ci teniamo a fargliela pagare, ci teniamo a suonare alle nostre 1000 giovinezze e 10.000 stanchezze, alle piccole storie di una rivoluzione grande come Inti, il sole indio, mentre chi sparava su di noi fa il presidente ora e chi fa l'attore è il boia, chi sfruttava mio padre sfrutta mio figlio, mentre la chitarra ora la suono meglio. E la voce si è fatta più ferma, mentre tu che mi ascolti mi stai di fianco come un blues brother, ignorando scalatori sociali travestiti, pezzi di merda, e mentre apriamo le orecchie alla contrazione rap, e rap, rap, rap, tutta la città corre, si sbatte, leonca il paso, spacca il marcio con un fiore che noi innaffiamo, stanchi di 10.000 solitudini, ma ancora bastardi, testardi. Cascano dei muri, foto bianche e nere. Batte il tempo, il cuore grande di Afriche metropolitane. Siamo cani, sfatti di pogo ubriaco. Se dormo, dammi una spinta. Siamo cani nei cortili, dietro la vetrata digitale. La bici rovesciata nella risaia che guarisce dal napalm. Violentata terra mia. Siamo cani. Respirate. No. Rien. Je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, aujourd'hui, ça commence avec toi. E adesso lanciamo l'ultima sigla dell'ultima rubrica di questa puntata, che è in soldoni. Ciao Tasso, ti vedo pensieroso, che c'è? Ma guarda, oggi non me ne frega proprio un cazzo di niente. Ok, e quindi? E quindi manda la sigla. Va bene. In soldani! E niente, è andata così oggi. Oggi è così, vabbè. Vabbè, a volte capita. Il pezzo che abbiamo sentito prima di questa rubrica era un testo di Giaccone sui Franti, letto da Luca Buonaguidi. All'interno l'ha letto nella serata in polveriera, di quella serata Giaccone, di cui vi parlavamo prima, esatto, del primo dicembre, di cui vi abbiamo fatto sentire che più e più volte tutto. I live durante questa e la scorsa puntata. Chi non l'ha capito, prestasse orecchio. Esatto. Più attenzione, questo perché... testo è contenuto nel libro I Franti, perché era lì. Perché esatto. Era lì, come l'Everest. Poi chi avrà il piacere di leggerlo scoprirà cosa vuol dire. Cosa vuol dire Franti e cosa vuol dire anche il sottotitolo. Siamo giunti alla fine. Anche per oggi. Saudaci che mi prende. Rilanciamo un secondo i contatti. Forse la voce squillante del nostro amico Nicco è la migliore. Ok, ma andiamo. Sì, va bene. Grazie. Scarichi il barile comunque di base. Incredibile. Il nostro sito wombat.noblogs.org, il nostro account su Twitter Radio Wombat Fi. Abbiamo anche una pagina su Facebook che è Radio Wombat Firenze. E chi ci volesse scrivere e dire come gli è venuta questa crema pasticcera che oggi ci ha detto Kate, insomma, ci può scrivere a postawombat@insiberia.net. Evviva evviva. E noi a questo punto salutiamo tutti. E ci sentiamo tutti. Tanto anche la regia che oggi ha combattuto. Ha combattuto duro, graffiati. Usciamo con le ferite da questa puntata, ma sempre più duri, ragazzi. Vabbè, speriamo di avervi allietato con la musica e con tutte le nostre rubriche e gli interventi. Dai, fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. A lunedì qui prossimo su Radio Wombat. Fuoco alle polveri. Go how it Paul Berry. Radio Wombat. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini. Col tuo cognome da mezza sega. Con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu. Mezza sega.